Gigi D'Agostino. Questo è il cammin di Gigi D'Agostino. Questo è il cammin di Gigi D'Agostino. Questo è il cammin. Ah ragazzi, cariata tu. Questo è il cammin di Gigi D'Agostino. Questo è il cammin di Gigi D'Agostino. Questo è il cammin di Gigi D'Agostino. Questo è il cammin. Ah ragazzi, cariata tu. Cariata futurista. Allora, ragazzi, sai che ti dice che cambia l'ora del programma? È il cammin di Gigi D'Agostino. Le pe dalle 6 alle 7, ma le dalle 2 alle 3. Da lunedì 5 marzo, il cammino di Gigi D'Agostino dalle 2 del pomeriggio. Andiamo, regà! Depresso. Rimani connesso. Dai un po'. Ascoltatori e danzatori, chiamati i vostri genitori. Sverti, va. Qui c'è musica che pesta, suona il maestro e roba onesta. Stai a capire? Gigi D'Agostino è lento, violento e viceversa. Agli altri il palo è la traversa. A volte il cammino di Gigi D'Agostino percorre anche sentieri sterrati. A volte parlo, non so cosa ho detto. Fammi una mixata, va. Aristotile, tot, tot, tile, chiara.

Alcatraz, Milano. Troviamo tempesta, alziamo la testa, una mano sul cuore, danziamo l'amore. È un gesto normale che è contro ogni male. Facciamo rumore, urliamo l'amore. I can go, no, no, I can go, no, no, I can go, I can go. Vuoi giorni grigi? Scrivi a Gigi. 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2. Voglio dire a Danilo che il mio cammino insieme a lui è stupendo. Elisabetta da Torino. Il cammino di Gigi D'Agostino. Ogni giorno ti scassa un pochino. Rosario da Messina. Gigi, volevo ringraziarti per tutte le emozioni che la tua musica mi regala. È come se la mia anima si riempisse di una grande energia.

is away, till I feel alive again. I've been wasting time I should have spent loving today. I've been losing chances I could have used to love away. To live a dream, the sky in its eternity, the waves of the ocean are posiamo un pochino, a tra poco con il cammino. Vota e me piastis. Vota e me piastis. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Questo è il cammino. A ragazzi, gariata tu. Questo è il cammin di Gigi D'Agostino. Questo è il cammin di Gigi D'Agostino. Questo è il cammin di Gigi D'Agostino. Questo è il cammin. A ragazzi, gariata il futurista. Gariata il futurista. Allora, ragazzi, sai che ti dice che cambia l'ora del programma? È il cammin di Gigi D'Agostino. Le peu dalle 6 alle 7. Dalle 2 alle 3. Da lunedì 5 marzo il cammino di Gigi D'Agostino dalle 14 alle 15. Il cammino di Gigi D'Agostino. La radio. Saluto mia mamma, mio papà e mio fratello che abitano in Sicilia. Rosy, dalla provincia di Como. E di nuovo cambio casa, di nuovo cambiano le cose. All'orizzonte il tempo, il modo di vedere, cambio posto e chiedo scusa, ma qui non c'è nessuno come me. E stasera do lavare il mio vestito per l'amore, cambio donna e cambio umore. Stasera stasera. Questa sera voglio uscire, che mi facciano parlare. Voglio ridere, voglio bere io. Stasera cambio amore tutto qui. Ma sapere dove andare, come sapere. Ma dentro casa inverno e fuori no. E vendo casa per un motore, la soluzione è la migliore. Un motore certamente può tirare. La mia fantasia è un po' danneggiata, da troppo tempo parcheggiata. E poi cambiare casa, come cambiano le cose. Ti sto ascoltando e sto viaggiando con i tuoi suoni. Non vedo l'ora che arrivi il 18 per alzare le mani insieme a te e a migliaia di persone. Gabri, da Torino. Dai un poco sta cassa. Gigi D'Agostino. Una buona occasione per diventare tamarro. È giusto. Il cammino di Gigi D'Agostino. Una grande famiglia danzante. Da lunedì 5 marzo il cammino di Gigi D'Agostino alle 2 del pomeriggio. Che è la donna più bella del mondo e che la amo da morire. Mauro da Viterbo. Gigi, sono Arianna. Anche mio fratello di 10 anni ti ascolta. Bravo. A volte è incazzato, ma mai meschino. Ti puoi fidare. E Gigi D'Agostino. E Gigi e Gigi Gostino, Gostino, Gostino, e Gigi, Gigi, Gigi, Gigi, Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Non giochiamo. Dedicare la canzone Vorrei fare una canzone alla mia collega dei Vasetti. Sì. E dirle che mi mancherà anche lei. Grazie per questo mese passato insieme. Chi è questo qua? Furbi o Pulcino. Vorrei fare una canzone da suonare con la chitarra per le strade alle persone. Vorrei fare una canzone per donare a tutto il mondo un poco di immaginazione. Vorrei fare una canzone che trasmetta un ideale se le cose vanno male. Vorrei fare una canzone anche solo per cantare. Ciao Gigi, sono Davide dalla provincia di Pavia. Volevo dedicare Vorrei fare una canzone al grandissimo amore della mia vita. Luna, ti amo da morire. Davide. Vorrei fare una canzone per cantarla sottovoce, dolcemente a chi mi piace. Vorrei fare una canzone per l'estate, per Natale, malinconica e speciale. Vorrei fare una canzone da suonare con la chitarra per le strade alle persone.

Ci sentiamo domani. Grazie.